Il problema è che fondamentalmente nel mondo degli appalti abbiamo una situazione di sottorganico più o meno strutturale. In particolare negli appalti dei manutentori meccanici, dei termoidraulici all'ospedale maggiore, c'è un problema di sottorganico strutturale che fondamentalmente crea dei turni insostenibili per i lavoratori e dei carichi di lavoro insostenibili. Questa situazione era già stata all'atto del cambio appalto denunciata dalla FIOM, quindi parliamo del 2019, ma adesso sta toccando dei picchi più insostenibili, per cui abbiamo dovuto aprire lo stato di agitazione, attivare tutte le procedure di raffreddamento perché siamo nei servizi pubblici essenziali, però la volontà dei lavoratori è di dire basta, soprattutto perché appunto il sottorganico che c'è non permette il godimento dei riposi settimanali e giornalieri. Questi lavoratori finiscono il turno, attaccano la reperibilità, vengono chiamati alle 3, alle 4 di notte per interventi urgenti perché gestiscono appunto la climatizzazione anche della banca delle cornee, delle sale di operatorie e dei pronti soccorso all'ospedale maggiore, quindi finiscono il loro turno, vanno a lavorare di nuovo di notte, alla mattina alle 7 devono riprendere a lavorare come se niente fosse. Quindi questa situazione che va avanti ormai da mesi è insostenibile, noi abbiamo detto basta. Una situazione che chiama in causa comunque anche il committente. Sì, noi abbiamo più volte provato a aprire un'interlocuzione anche con la committenza, nel senso che è evidente che appunto c'è un problema di come vengono aperti e gestiti e controllati gli appalti. Quindi oggi appunto, anche grazie diciamo così alle clausole di raffreddamento nei servizi pubblici sociali, speriamo che si riesca a fare una discussione a 360 gradi su questi tipi di appalti davanti al prefetto e chiamando in causa anche la committenza.